Queste le riconosco. Sono foglie di misra. Creano un infuso che si adatta a chi lo beve. Rivela ciò di cui il corpo e lo spirito hanno più bisogno. Ha anche proprietà curative notevoli.